E allora, ui. Allora Giuseppe, oggi spese hai? Qua, mi stiamo appena rientrando, mi grazie. Abbiamo fatto un salto per prendere una tuta, un giubbotto. C'è ma la gente, la puoi dire un bisodinata. La gente bisticciando e la gente in fila alle casse con i carrelli pieni. Ma per comprare roba? È positivo. E ho fatto un salto lì da Globo ed era strapieno, grazie. Senza contare città mercato poi. E chi vi siete entrati e fuggiti? Perché da ieri mi sembra ci sono questi incentivi su un po' di tutto, perlomeno elettrodomestici, mobili, macchine, moto. Mi sarà pulinata la roba, così sarà Natale. No, per i macchinari solo penso che sia, per gli elettrodomestici. A Pavindie mi parcava travaglio, E infatti... E poco fa sono entrato da Cisalpa e ho preso una tuta per avere un cambio, no? E anche lì pieno, ma c'era una prima di me lì alla cassa, 370 euro così, ha pigliato, ho visto che ha comprato 7 o 8 articoli lì, quella signorina alla cassa, ha tolto il banco, ma ho visto che ha pagato, tranquilla. Giuseppe, a Cisalpa perché non ci sei andato? Sto vendendo tutto a 10 euro perché deve chiudere. Lì ci sono giubbotti, scarpe, di tutto c'è. E sono andato a quello che c'è lì a Piazza Città Mercato, mi grazie. E Cisalpa, quello lì. Lì ho preso la tuta Adidas, ma non mi ha mentito, guarda, aspetta, prova che vuole mia moglie. Oh, grazie. Allora, l'Adidas bellina è come tuta, 55. C'è scritto fuori tutto, soffrendo fuori tutto, perché a quanto ho sentito deve chiudere. Aspetta, mi sta dicendo mia moglie, e 55 con lo sconto, c'era lo sconto del 30% e quindi è venuta a 55. Ma anche le scarpe, ho visto delle belle scarpe da tennis, ma ti dico veramente belle anche a poco prezzo, ce n'erano anche da 20, 24 euro o della Fila, Moto, Nike, e cosa tutto non c'era. Qui mi ha detto che ce ne sono anche da 10 euro, scarpe da tennis di marca, perché dice che devono chiudere e soffrendo fuori tutto. E beh, io già ne ho roba, già non me ne occorro, ma giovotti, io mi compro la roba e poi non me la metto, a chi piace questa, ce l'ho tutta appesa. Quelle da 10 euro, grazie, sono per bambino e per ragazza, dai, mi pare arrivi sino al 35, mi pare, di numero. E per l'esattezza, mi pare, se non ho visto male, 9,90. Quindi per chi ha il piede piccolo vanno bene. Beh, certo che sì. Comunque, quando va bene, svendite così, già ci va a fare chiaramente. Perché roba nuova, roba di marca, la pizza. La gente già la piglia, anche se ci compri, non so, una tuta di quelle per l'inverno. Ti appena alla base, c'è la tuta di marca, è buona, per dire. Certo, però ti posso dire una cosa, che ho chiesto per un giubbotto quelli senza maniche che si mettono la sera, magari quando comincia a rinfrescare un pochino sulla tuta, 180 euro, infatti già si l'attenti. Ma già le truppe adesso brillate di quei giubbotti, io ne ho 3 o 4, che costano di meno, già passano le brisi. Perché adesso tutto sta iniziando, ma proprio se ripassi lì se c'è ancora, vedi che il prezzo lo abbassano. E per forza, grazie, lo devono abbassare. totale, per forza, perché non si può pagare un giubbottino così senza maniche quel prezzo lì. Infatti gli ho detto no, non riappenda signori, era giusto una curiosità. E a casa in secca e da ridò 280 euro per un coso, un giubbottino così, ma semplice. Natalia, io non ci va a comprarti la roba, da gruppo, lo sai, no, ci salva. No, lo chiamo, quando sono lì, è così, non sì. Natalia. Ma no, domani mattina, come ci chiamano per, come si chiama, per il garage, da lì a scendere, poi 20 minuti, mezz'ora. Poi... Attento Natalaus, attenzione Natalaus sul 5, Graziano fa chiamata. Poi io domani sento Santini, se mi dice che chiude, entro le, cioè, se devo caricare le macchinate, ma ti lascio con le due farine di orto, troverò una e mezza per farsi green. E faccio un volante, vediamo un po', quando devo andarci tutto. Natalino si è perso, le onde magnifiche, Santini. Fino del 2. E sicuramente si è perso tra una nazionale e l'altra, mi grazie. E allora, ui, bambù, per carità, e domani è bella giornata lo stesso, così ha detto. Ma speriamo. Grazie. Io domani ho anche gente a casa, a pranzo, domattina. Me ne sarei voluto uscire un pochino, ma adesso vediamo, dai. Poi pensiamo a oggi. Al limite te ne esci, poi quando vengono rientri. Anche per distrarmi un po' grazie, sempre casa lavoro casa, il sabato a fare spese, tutte quelle storie lì, almeno la domenica un'oretta, io voglio stare con la testa, voglio stare un attimino con la testa tranquilla. Avanti il documento. Buonasera Giuseppe Tornado. Con la speranza che ascolti la radio vera. Buonasera Venaluno, ben sentito e ben trovato qui nella mia postazione tutto cappa, caro Vela, forte e chiasso, avanti Graziano per Vela. Buonasera, ben sentito Vela, cappa del Roggero, riprenditela in compagnia di Natalino e Giuseppe. Natalino non so se si è sentato però. Natalino va per Vela. Positivo è il capo Roggero, saluto tutti quanti circolari. Giuseppe, quella roba è terminata, cambia. Cappa di positivo Vela. Allora quando voi ci sentiamo, così ci facciamo anche quella commissione. Cappa. Aia, quella è una sciuccia. No, molta con la bagnata, ma ci fatto una sudata, ecco qua. E come mai, Erba? Perché nel frattempo qua dopo viene ingaggiato anche la donna a piazzare bastoni, bastoncini, tende, tendine. Aia, e non sei riuscito a ribellare. Non ci sono riuscito, 3-1, cambia. Allora è fatto bene per fare, in quei casi bisogna abbassare la testa e dire sempre di sì. E' capa, roba di sudata ma c'ho fatto, buia. E fa bene un po' di movimento sulla scala, sale e scendi, Vela. E intanto non è una giovata perché anche in dai sale e scendi, buia. Ehi, tanto per non perdere il ritmo. Così è Giuseppe. Cipino, si è staccata la luce? Era geloso, allora è andato anche lui a mettere i bastoncini, Vela. È positivo. Oh, Natali non si sente più Natali a me gruppi. Giuseppe ha sentato di sì. Avversione Giuseppe Tornado. Cambia. Attenzione Vela, non ho avuto il tempo di avvisarvi ma mi sta vacillando. Passa sul 21, però mi assento un attimo, va. Graziano? Allora, ricordiamo solo una cosa, non aggiungo altro, anche a te Pierpa, che quando entra padre con te, ok, senza aggiungere altro. È inutile, boh, è Pippina. Dai, facciamo così, padre concreto, andiamo di nuovo sul 5. Ehi, a padre concreto. Chi l'ha fatto? Sul 5, mi ha fatto. Ehi, a qua, Giulio. Scusa per la tua papia, mamma, mi ha spellato. Capo è positivo. Mi ha fatto un pezzetto di pane, non è un po'. Un pezzetto di pane? Ehi, capo, questa dieta mi sta distruggendo, la sto facendo. Buonasera padre, con chi mi hai sentito? Buonasera a tutti, dai. Papa, padre con chi stavolta mi faccio gli spaghetti alla carbonara, a mezzodì che gli aveva il ragù. Io me li faccio alla cacciatora gli spaghetti stasera. Allora, io la carbonara già me li ho già mangiati per il sicuro, me li ha fatti da perfetto, me li ha fatti a me. Padre, lei allora ha fatto peccato, lei ha fatto peccato perché doveva seguire la dieta. Ma già vado a confessarmi dopo dal padre superiore. Senta, fai positivo. Pier Paolo, anche lei un bel vigliacco, lo sa? Sapendo che sono a dieta, adesso gli spaghetti alla cacciatora. Adesso non so dove andare a cenare stanotte dai tremi. Basta venire in canonica qua. Cosa c'entra? Guarda, mi sto per mangiare un paio di tramezzini. Ali! Domani è domenica, o sbaglio, adesso sono a dieta e le monelle non le posso fare. Ma lascia perdere la dieta, dai, che tu sei in linea. Se no, guarda, stanotte mi ha mangiato tutto a me. Ma non lo so, aspetta, devo fare una pausa. Ragazzi, io devo andare a confezionare qua e quindi saluto e ci sentiamo alle prossime, dai, che devo fare un po' di confezioni. Guarda giù, poi dove stai andando? A confezionare un po' di gente devo andare. E me la confessa a me? Sì, ma se vuoi avere la soluzione devi tirare il tuo cordone. Ma qua non te lo posso dire dove te lo metti il cordone. Vabbè, me lo dirai in verticale quando vieni in canonica, figliolo, Dove sei? Io sei? No, sono in canonica, so. Cazzo, ma guarda che adesso ti colla tua via, mi metti il numero di telefono. Vai, da bravo. Adesso dico il tuo nome in diretta, lo dico così, anche il numero di telefono, lo dico a tutti quanti, lo dico. Sì, fai così. Così vedi che altro che il cordone ti esce. Ma sapete dove abita? Abita San Giuseppe, e dove è il 27-27-01. No, che me l'hanno cambiato. 69. Ti fai prefisso, padre? 69, anche prefisso. Aspire, il numero fortunato? Giuseppe, quel tuo telefono, mettilo a buio nella vasca da bagno, forse prende. Aspetta, che va messo? Era sotto pranica, te lo hai acceso. Vedi un po'. Aspetta un attimo. Su. Allora... faccio qualche cosa che voglio io, hai qualche attività? quando il microfono in mano ci sono mille problemi, aspetta. Avanti, avanti. Già, spero che tu mi ascolti bene. Mi vedo tutto per qua. Non ha giocato di manco di bulimica. Oggi proprio è stata la giornata piena, piena, piena, eh. Cappatelle, sabato, la gente fa sempre doppia spesa, quindi figurati. Sono ritornato e c'erano altri problemi, mi sono dovuto correre da una parte all'altra, il computer e questo e quell'altro, queste cose si possono fare un capo. Cercare di tappare anche quelli che non riescono a cavare un ragno da un buco. Ma chi ti conoscono solo Gianni, io? Lo so già, pure. E cosa si vuole fare? Tocca correre e stringere i denti e via. Ma io ti ho detto che non se lo sogno un'altra volta, di guardare come si fa, che non se lo sogno un'altra volta, che io perdo mezz'ora per lì. Se non imparo a fare così, tante volte è molto comune, non lo so fare, così allora lo fanno gli altri, no? Si che trova quello che devo fare, poi quando non c'è quello che devo fare, gli altri si ne affutti, E capa, poi quando non trovano quello che glielo fa, poi si se lo fanno da soli. E a forza di malagana, si è un pila di volte, Se non sanno staccare un cavetto, andiamo bene. Sembra un uccello cantato. fonografia non è ovvio, no. È questione che certi figli li devono abolire. Secondo me almeno erano figli di terrore quelli. Dove andiamo? Sentite voi anche voi questo. Ola, ola, ola, ola, ola, ola. Gabba, guarda, si dovrebbero abolire questi figli di terrore, che anche tipo rispetto alle derricche e roba del genere. Ma quello dovrebbero abolire subito, di positivo, hanno suonato il campanello, ho 5 minuti di bianco per me, riprendete voi. Ma vado diretto, buonasera. Buonasera a tutta la rotta. Romolo, ma questo è dopo chi c'è? 7 anni che sto tornando a Porto Torres, avanti già, vediamo se l'ascolti. Ehi, la riga ce l'ascolto, buonasera, non ho capito chi è però. Ciao Gianni, Antonello sono, nuovo entrato, ciao, mi hai sentito? Ciao Antonello, mi sento anche a te, e dove sei in macchina? Con la bambina che me l'ho chiamato. Come? Sento con tanto quente, ma... ma dove sei tu? Sei vicino a Vongolo, con la Rota Rossa. Ah, a casa sei o in macchina? A casa. No, siamo appena arrivati al cancello, Sì, sì, nulla. Ciao già, ci sentiamo più dopo. Ciao già. In casa. Ma poi senza andare molto lontano, lasciamo lontano, che lontano, ma anche in Umbria. Non con le, così senza misti non ci arrivi assolutamente. È così, Tu a quattro vacanti, chi tu vedeva andare a bombata? Quando sono detti sono meglio. Quando sono presenti sono meglio ancora. Cioè, praticamente l'antenna diventa 20 più umana. Quello è normale. In effetti poi se andiamo a controllare bene, perché viene chiamata banda cittadina? Perché con 4 watt erano qui, quindi dintorni. Si sentono pure fuori, non è che non si sentono, no. Non è che non si sentiano, è a Puglia che si sentono. Però fa quello che fa, ci sa la cosa. E K di positivo. Un secondo sta arrivando. Ragazzi, la cosa è quella. Ci danno aria, non vedi niente. Eccolo, mi sarà sembrato un attimo che mi hanno chiamato da dentro. Uria, oggi cazzo sono concorrente da una stanza all'altra. Ma è così Giuseppe. Un bel niente si dà bene aria. Sì, vabbè, ma tanto si sa che se non hai sotto una buona spinta non esci, è inutile. Anche io ho la Mantova e lo so. Io sto scendendo con 4 watt adesso lì. Tanto. E non credo che, sì, magari a quanto torre arrivo per la zona che ho, perché è tutto aperto, ma che non mi metta in testa io di arrivare, che ne so, a Poaghi, non so se da qui con 4 watt ci arrivo, a Berchida me lo sogno, sono sicuro che me lo sogno alla grande. Ma è così, ci arrivo a soldi e nell'altra zona. Tipo come qualche arriva. E campa, certo, perché lui è già diciamo fuori città. Io che da qui devo attraversare tutta la città, tutti gli ostacoli che mi trovo davanti, buonanotte. Quindi se non metti un whisky sotto, sei tranquillo che non arrivi. È normale, è normalissimo. È come la stessa cosa, cioè. Alzo l'antenna e prendi i matracchi, ma se sei in un posto puoi migliorare poi. Ma se sei in un posto non posso dire, non posso rimanere. Mi vuole che te lo parco 20 metri per trovare quei risultati lì. Quello senza ombra di dubbio, ci mancherebbe altro. E niente, per riuscire a evadere bene bisognerebbe mettere su qualcosa di alto, come ad esempio chi abita giù al latte dolce e piatta l'antenna sopra il grattacielo, sono sicuro che esce meglio di tutti, perché sei sempre più in alto. È normale, è così, cioè, se poco da là, è inutile che siamo lì ad aggirarla, è così, Così, Antonello Bonponi, buonasera Antonello. Buonasera, salutoni. Quanti bombolo che c'è stato nel Bonponio. Anche a te hai sentito. Oppure Bombolo, sai dove me la piaccio la prossima antenna? Dove? Me la piaccio su al rifugio dell'Aquila, metto un pochino di cavo da lì a qui e su che andiamo. Ma ti gusta io. Noi. E chi vi già seminato lì? Alto. Sì, seminato lì. Dobbiamo fare anche 200-300 km di cavo e su che andiamo. Avevo. Prego un attimino che mi sta squillando. Mi stanno anche chiamando. HKP vada pure tranquillo. Vada pure tranquillo, mannaggia. Avanti Antonello. Ma vabbè, come va oggi? Cosa avete combinato di bello? Beh, siamo qui seduti. Antonello, ci hanno mandato un po' del più e del meno. E il sabato, che bisogna stare un attimino più tranquilli, tutti quanti, belli, rilassati, perché poi domani è domenica, Antonello. Chi può e chi ha il posto domani una bella arrostita giù in campagna e via. E domani un altro giorno. E una bella arrostita si può fare sì. Io domani me ne scendo giù, faccio una bella arrostita davvero. Ci ho preso la rilassita stasera, che costava un po' pallino, 33 centesimi. E così ce l'abbiamo per domani a pranzo. Cappa di questo tipo, perché ha messo bello anche domani, quindi domani è da godersi la prima parte. Cappa, vogliamo la gola. Domani è una bella bistecuzze, fatte con la fuoco a legna, che bello, tanto. E poi prendono anche un altro sapore, mio Antonello. Poi in campagna c'è sempre più appetito e via. Pane, carne e gloria. Puglia, e su che si va. Così bisogna fare così. Tanto, mio Antonello, non sai cosa ti dico. Oggi ci siamo e domani pure, quindi. Vabbè, quello che è vero. Tutto quello che lasciato è perso, mi diceva la buona anima di Totò. Quindi bisogna vivere la giornata, divertirsi, spensierati, senza che anche i cantini di sotto e tutti pieni di problemi, ma devo fare quello, devo pagare quello e poi, ma pensa oggi, domani è un altro giorno, domani vi pensiamo a spaccarci la testa. Anche quello è vero. A mangiare ci fosse sempre, Antonio, quei problemi già si risolvono. Allora, va, io, se la vedo la mattina io. È tutto il giorno in giro in moto stasera, e giù, facendo storico anche, quindi. Ma c'è ricaduto tutto, sia di ste, io sta con la roba che c'era, adesso sono tranquillo. Ah, te ne è salito tutto? Sì, c'è un frigo in garage, solo che da solo viene male a portarmelo sopra il frigo nel garage. Adesso vedo un po' di cercare qualcuno, lunedì, non martedì, e me lo salgo sopra. E calma, ma su a casa tua? Sì, a casa mia, sì. Sono direttamente qua a Carbonati adesso, non c'è più niente giù, non ce ne cabe, tutto mi sono portato via sopra. Ho sentito le ferme, che ci avevo fermo di là, poi due impianti stereo, alcune altre cose di elettronica che ci avevo buttate. Fatto bene Antonio, almeno hai tutto lì a casa, fatto un piccolo sacrificio magari, ci sarà un po' di stanchezza in più, però almeno hai risolto anche quel problema lì. Avanti un brecco. Buonasera Giuseppe, buonasera Antonello. Massimiliano Bulldozer, vi cordializzo con la buonasera. Buonasera Massimiliano, cordialità da parte mia anche a te e avanti Antonello Pomponio. Ciao Massimiliano, sono tu diventato. Come va, tutto bene? Tutto bene, sì. Buonasera. Sei tu, buonasera. Buonasera anche a te. Buonasera. Ah, positivo, sì, ok, buonasera. Io direzione Tacca di Mano. Va, spendere. No, negativo, a spendere no. Abbiamo già fatto, ho capito. A ritirare ci mettiamo poco, a spendere ancora di meno. K, positivo al 100, Massimiliano. Oia. Macello. Ma tu sicuramente salite voi, sì. Adorogio. Io il tuo pomponio non esce male, Giuseppe, sabato non esce male, No, guarda che già posso uscire, mi sono in moto, quindi se non posso salire libera al quadrato in moto non c'è problema. C'è la moto qua, nella sua solita sopra adesso. Ma cavolo, se felici siamo noi il sabato. No. Ma lì dove? Al bar, guarda là. Ma via vedo, il quadrato è grande, se sei da, verso la, quel bar dove si fa di solito, oppure dall'altra parte verso, come si chiama, dalla parte mia, là. Dove c'è la fa, più o meno, di fronte lì. E dove c'è, là? A mano, il bar. Brava. Comunque quando vedi la, quando vedi l'antenna lunga, siamo noi. Vabbè dai, andiamo qui, io sto andando la macchina. Dai, lasciati un minutino, e su così rulla. Ma tu, quando fai il gongo, quello dritto, vuol dire che c'è il pesce attaccato. Che disgraziato. Va bene, comunque già ci passo dopo, là. Se siete su, faccio la moto, quindi non avere l'antenna, mi blocco. Cappa io, Roger, più se anche a te. Cappa, mai ce ne vorrei essere stasera. Addirittura? Cappa. Allora. Non è un microfono dedicato, Massimiliano. Un microfono amplificato l'altro giorno, io ma con la dito non ci ho mai neanche guardato per una persona. Mi detto guarda che l'ho comprato la negozio, sono andato a mettere la batteria e mi sono trovato in camera di cambi tutti staccati delle connessioni. Adesso dimmi tu, ci sono i cavi della capsula attaccati, il cavetto attaccato, l'indicatore della taglia di sigabile oggi compreso. Faccio prima comprarlo nuovo, che è il culo della linea della Mondessa adesso il corso. Nessuno può stare a portare, io l'ho fatto. E meno male non gli ho dato a quella parola, se non avrei fatto una figura di merda io. L'ho guardata adesso, l'ho guardata. Certo, i fili staccati. Dimmi che ho comprato la negozio, ma dico. Ma lo diciamo, l'amico tuo, sono andato stasera a mettere la batteria per poterlo collegare all'internet, che è stato fatto canale, poi mi sono trovato i cavi tutti staccati. Ho preso quello della capsula. Dimmi tu. Figurati. No, invece a me l'hanno fatta più bella la vetta, mi hanno dato una capsula e dentro non c'era niente. Sì, proprio lo stesso padrone, ti ricordi di parlare di quella capsula? La stessa cosa, ma... Non sono contro Ucci, non sono d'accordo. Faccio un baguardo, andare a coso. Lui diceva, non mi costa niente, compro un microfono amplificato e vedo il terzo io. Quanto costa? 15 euro questo microfono amplificato, come si deve. Ma la Fusano? Sì, ce l'ha Fusano, ce l'ha anche, forse, mi sembra anche la GBC ce l'ha. Ma se no scendo la Grassi, scendo, me lo prendo lì un microfono, di quelli della Intec. Non so che ancora non sono riuscito a capire dove cavolo si è trasferito Grassi. E neanche io addirittura, perché l'altra volta sono andato a cercarlo e boh, sono riuscito a trovarlo, la vedo di Ricchia. Non so vedere. Ok, dai, riprendi Giuseppe. Giuseppe deve essere piaccia altre cose. Ascolta a me, Antonio, come sta uscendo questa radio con questo microfono? Benissimo, chiaro e amplificato. Roger. Un attimo io, che sto cercando roba in macchina. Via, d'accordo. Ok, l'ho ripreso. Cava. Cazzo di... Cosa mi fogli a sentire? Cazzo, aspetta un attimo. Giuseppe, ci sei? Positivo, Massimiliano, avanti. Sì, io te l'ho rilanciato, ho detto sicuramente è andato a fare qualcosa. Ci sentiamo dopo se ci sia allora. Positivo Massimiliano, scusami per poco fa, ma mi ha chiamato mia moglie che non la tenevo in cucina. E che problema c'è? Scusa, negativo, scusa. Cappa Massimiliano, vai, ci aggiorniamo a più dopo. ancora su internet se c'è qualche metro e cento. Io ce l'ho uno qua da riparare, anzi due ne ho veramente. Se riesco a ripararne uno di quei due te lo regalo. Ciao, magari. Due o due, va bene, lasciatelo con il franchetto, quello la mettiamo a posto. Poi uno uguale a quello del franchetto e poi uno modello vecchio. Adesso quello, se riesco a farli funzionare quei due, uno te lo regalo. Positivo, io lo stavo cercando, se riusciamo a trovarlo uno. Brava, no, io ce l'avevo di mettere certo, ne ho modificato parecchi anni, ma sai quanta gente ce l'ha? Sto se è pieno di mettere certo, solo che vai a cercare i cibi che non stanno bisogno baracchini. Caparrosio, dammi 10 minuti da Tibia, devo fare un attimo di piano e scendo qua al negozietto, secondo Antonio, riprendo la via, va bene. Probabile anche quello. probabile anche quello. Anche poi ti dico una cosa, cosa che non sapevo sino all'altro giorno mio, una cosa che ha comprato lui a Pretanieta, un mio collega di lavoro da quei cinesi lì. Figurati tu quante a che cosa sono arrivati adesso. Avanti. Ma ricordati che dal sabato e la domenica dalle 6:30 c'è qualcuno che ha fatto una richiesta, hai capito, ha pagato da Cagliari e c'è un controllo dalle 6:30 sabato e la domenica, compreso oggi. Ma detto che è? Attenzione, se non vado copiato male è l'amico Vulcano. C'è stata una richiesta da Cagliari con pagamento, a quanto pare per loro, e c'è controllo anche oggi. È copiato Vela. E poi c'è oltre, in questo momento c'è controllo, in questo momento c'è anche domani. Copiato per Vela. No, negativo. Allora oggi, dalle 6:30 in poi, compreso domani, c'è il controllo della balena bianca in giro. Richiesta che è fatta, sarà fatta esplicitamente da Cagliari sotto pagamento. Ma quelli che hanno fatto una stamattina? Perché fa? Quelli che hanno fatto una stamattina? Non lo so, chi ha fermato questo? Sì, è compreso oggi ed è compreso anche domani il controllo. Ma non lo so, a me sembra Gigi, sei tu, vieni avanti. Però io comunque acqua in bocca. Tappavi in positivo oggi, tranquillo. Grazie comunque. Che paura! Cava. E me che fa? Tutto cava? Oh, sogno! Ok, spengo tutto e sto scendendo. E quel ritiro da parte di Giuseppe ci si sente a trappi. Vai, appena. D'accordo. Luigi Montellese. Luigi Vulcano. Aiuto. Ci sono per nessuno, sono in pausa. Mica, che me lo pausa, Sedia. Come hai sentito, è come un microfono normale, ancora oggi. parte proprio quando devi uscire. Ma sarei anche Tattalino. È molto molto meglio, fregatela. prego, sono messo a posto. No, stiamo facendo quella roba di giù, Mario. Ho finito, guarda, ieri. Figurati, adesso devo salirmi alcune cosette dal garage che ci sono rimaste. E così ho già finito tutto. E sono libero. Ehi, ho buttato via la live. Che stai tu e quindi? In casa? In questa camera qui, a parte l'altro che mi hai dato pure. L'altro vero, figurati tu. Gappa gappa. Quando è che devi metti a posto? Te lo metto a posto, lo sai che roba non mi butto. A meno che non sia roba che non serve per nessuno, allora sì. Se no roba non mi butto io. L'ho fatto così. Gappa gappa, ma largo, che te l'ha fatto? Ho sentito che me l'hai regalato. Largo, sono legato a Adriano. Ma non male che l'avevo dato per il piede, per mettere a posto il mio. La massa che se ne scende, proprio. Guarda che l'avevo dato per pezzi quell'argo a me. A parte i pezzi mancavano dentro, ce li ho dovuti mettere. Ho preso anche il microfono che mi ha dato, ci ho dato un microfono nuovo. L'ho aperto e ci sono tutti i film attaccati. Già te lo faccio vedere, dato che non ci credi. Faccio vedere la roba che mi ha dato quello là che. Quindi non preoccupate per quello lì. Deve adesso sistemarselo, coso, Adriano, se riesce a trovare la N, se tu c'è stato a 541 che riesce a farlo accendere, si vede il difetto che c'ha. Lui c'ha apparecchi, non è che c'è apparecchi dove lui, c'ha apparecchi che ha recuperato la montezza e capito. E ce l'ha così a casa sua quello là. A parte se ho quattro che funziona e basta. Gappa gappa. Andà bene, là. Comunque io sono sempre qua. Ah, brava, non c'è problema. Mentre faccio vedere un microfono mandato. Dice il nuovo logo, dice comprato al negozio e invece tutti sono staccati. Ma magari adesso un microfono amplificato io, il microfono amplificato io, se no faccio più di cacca per lui. Ma lui oia, se lo stesso quinto c'è quello, è la roba che non serve a niente. La moda sta sua aria. Va bene, dai, io niente, mi sto mettendo a posto, stavo facendo il pannello per nascondere un po' di fili e sono quasi alla fine con questo mobile, dai. Qui dovrebbe essere quasi tutto a posto, a parte che dovrò fare passare l'alimentazione di due ET. L'alimentazione e il cavo ce l'hanno già. Adesso devo fare passare il cavo per gli effetti per accedere. Hai fatto così, capi bene, non è che è una bella cosa. Almeno sei tranquillo. E vuol dire che se si farà la stazione radio fuori? Non è già apparecchi fuori, ci ho detto che pure il bellaggio che si trovi. Prima tappa, poi vedere l'estate se c'è il caldo da morire, e d'inverno c'è un freddo da crepare. No, perché già c'è la pompa di calore. Sì, certo, già ti arriva la luce già. E è che non mi arrivi, mi vedo 50, mi vedo 80. E a me 106, cosa adesso? Comunque lei ha aumentato per la luce, ha aumentato il gas e ha aumentato la luce, quindi... Oiaia! Adesso domani mi faccio bene l'aspirapolvere, pulisco tutto e finisco di mettere le viti dietro. porti appresso, peggio di me, quando c'era lo stereo Simone acceso, che a metà me lo porto appresso io, vivo da di tutto. Quegli apparecchi sono simili agli apparecchi, gli appompano bene. Ah, non si è sentito nessuno stasera. Ho sentito Massimiliano Bulldozer poco fa, che Paolo e qualcun altro, ma devo salire pure, mi chiamerò qua di piscina, non so cosa. Ha guardato qua a incontrarsi. Va bene. Io non ho ancora che avevi sentito tutti quanti in radio. No, non sento di nessuno. Speriamo che vengano per forza. Poi adesso lo vado a dare quanto vale, se è vero quello che hanno detto la regione, dovrebbero dare per i disoccupati 800-900 euro al mese, adesso non so come sia la questione. Lo Stato della regione pure ai comuni, quindi ci sarà una domanda. A meno che non faccia la scelta, si prende i soldi e cioè di là dei soldi non fa nulla, oppure c'è quello che voglia lavorare, ma non lavorare e è pagato lo stesso. Adesso mi devo informare, vediamo un po'. 800 lire sono buone per un anno. Gappa, va bene. Adesso mi informo quando è che questa legge qua la approveranno e daranno i fondi, così almeno faccio domanda. A me interessa lavorare più che altro, non è che proprio di stanza fare un tubo la mattina e la pastiglia. Se mi viene questo diritto, di quali preferisco lavorare, mi date ogni mese, sono tranquillo, almeno passo il tempo. Chi mi chiama avanti? Chi mi ha chiamato? io già sono all'ascolto, se c'è qualcosa già mi sento, e adesso vado e mi mangio un piatto di pasta e poi mi mangio una fettina con un poco di pietole. andà bene, come mangia, buonasera Mario, si chiama di vite rosso, se ci sei. Tu dove ti accettano? Dimmi! Come dice? Sì, sto arrivando. Aspetta che metto i monti, metto giù poco, io ve lo faccio pure. E sto arrivando. Io sono qua. Va. Sto arrivando in moto lì.